Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani, pionieri dell'innovazione. Questo è il tratto comune nelle storie degli imprenditori di oggi che cercano senza sosta di arrivare dove gli altri non arrivano. Come è avvenuto per ESA S.p.A. di Milano, fondata dall'attuale presidente Enzo Rubi nel 1974. Oggi è un'azienda italiana leader nel settore della sicurezza elettronica professionale, dove opera da oltre 30 anni come costruttore e distributore di sistemi integrati e apparecchiature professionali, come sistemi antintrusione, di videosorveglianza, automazione degli edifici, controllo accessi e antincendio per la protezione di edifici residenziali, commerciali, industriali e bancari. Oggi alla guida dell'azienda ci sono i figli Andrea e Carlo, e Carlo racconta come per primi hanno inventato il settore in cui lavorano. A dire il vero, c'è proprio una data in cui è nata la storia della nostra azienda. Noi ci occupiamo di sicurezza e mio papà ha creato l'azienda. L'azienda è nata nel 74, ma in realtà la lampadina si è accesa nel 68, per la precisione nell'aprile del 68. C'è una data precisa perché in quel mese c'era la fiera campionaria di Milano e mio papà, che a quel tempo trattava componenti industriali, gli era capitata l'occasione di esporre quello che era il primo rivelatore di movimento, quindi la prima apparecchiatura di sicurezza elettronica in Italia. Questo apparecchio aveva suscitato lo stupore e l'interesse di tutti i visitatori. Ricordiamo tra l'altro che il 68 era l'anno in cui della contestazione, in cui cominciavano a nascere le prime esigenze di sicurezza nel nostro paese. Dal 68 al 74 mio padre si è trovato nella condizione di dover praticamente creare un settore, perché esisteva sì questo rivelatore di movimento, ma non esistevano tutte le altre apparecchiature necessarie a fare un sistema d'allarme, dalla centrale alla sirena, non esistevano i costruttori, non esistevano neanche gli installatori, quindi si è dovuto creare un settore che è nato rapidamente dal 68 negli anni seguenti, e poi nel 74 nasce proprio la società ESA, e si decide a quel punto di specificare la nostra attività nella vendita di apparecchiature alle società di installazione. Quali sono state le difficoltà di quel periodo iniziale, e come si è arrivate dall'idea alla realizzazione, cioè soprattutto i tempi e diciamo gli ostacoli? Beh, gli ostacoli sono stati quelli di creare un settore dal nulla, però devo dire onestamente che i primi anni sono anche stati facilitati per certi versi da un'economia che bene o male andava bene, e sostanzialmente da una domanda di sicurezza crescente alla quale nessuno era in grado di fornire delle risposte. Quindi nei primi anni si viveva in una situazione per certi versi anche di vantaggio. E invece dal punto di vista degli aiuti, del network, cos'è che ha aiutato di più? Beh, devo dire che negli anni poi successivi, dal 74, in questi quasi 40 anni di vita della nostra azienda, devo dire che quello che ci ha aiutato di più è stata la capacità di fidelizzare gli operatori del settore, quindi di creare dei legami forti con quelle che poi negli anni sono diventate le migliori aziende di installazione, e quindi di riuscire a trovare di volta in volta le soluzioni sia tecnologiche sia commerciali che meglio potessero rispondere alle loro esigenze. Questo è stato il network, e per quanto riguarda diciamo il mettere in piedi un'impresa, che cos'è che vi ha aiutato di più nella realizzazione di questo grande progetto? È stato forse un po' anche un insegnamento che si è un po' trasmesso da nostro padre a noi figli che lavoriamo in azienda, che è diciamo la consapevolezza che l'azienda è un bene importante non solo per noi ma per tutte le famiglie che vivono in base all'azienda, ecco, quindi le famiglie dei nostri collaboratori. Noi abbiamo la fortuna di avere delle persone che hanno iniziato con noi come primo lavoro e hanno cessato quando sono andate in pensione, quindi al di là del lavoro, ecco, anche riuscire a trasmettere questo senso di appartenenza ai nostri nostri collaboratori, penso che sia stata una formula vincente. Ecco. ESA vanta una serie di primati, è stata la prima azienda in Italia a introdurre sistemi di sicurezza telegestibili e teleprogrammabili, ha introdotto appunto la verifica video degli allarmi, ha creato la figura dell'installatore professionale, prima fondazione operante nel settore della sicurezza riconosciuta a livello nazionale. E adesso com'è il settore? Il settore è difficile, nonostante quello che si possa pensare, perché molti dicono ma la sicurezza è un settore in controtendenza che non conoscerà mai crisi. Non è così, purtroppo, perché in questo settore si sono buttati un po' tutti quanti, da quelli più o meno improvvisati a quelli che fino a poco tempo fa facevano mestieri completamente diversi. Manca una regolamentazione specifica anche sulla figura degli operatori della sicurezza, e questo fa sì che ci sia molta confusione. Aggiungiamo anche che negli ultimi anni nel nostro settore sono entrate in maniera pesante le aziende multinazionali che hanno fatto shopping nel nostro paese, e oggi ESA è direi una delle pochissime aziende ancora interamente italiane, ancora familiari nel nostro settore della sicurezza. Questo da una parte è stato, se vogliamo, una difficoltà, dall'altra anche un'opportunità, perché ci ha spinto a sviluppare nuove strategie, soprattutto nei campi là dove le multinazionali avrebbero avuto difficoltà o proprio non sarebbe stato possibile per loro seguirci. E quindi abbiamo iniziato tutta una serie di iniziative per gli operatori, organizziamo corsi non solo sulle nostre apparecchiature ma anche sulle normative, sulle nuove tecnologie, e per dare poi alla fondazione, che è un esempio concreto di un'iniziativa dove veramente ci mettiamo del nostro e mettiamo a disposizione delle risorse per diffondere la cultura della sicurezza del nostro paese, e lei capisce che questo è un campo nel quale difficilmente un'azienda multinazionale può mostrare sensibilità e può arrivare a seguirci. Ecco. Certo, oltre a essere vantaggi competitivi, sicurezza e prevenzione sono dei valori, lei si sente un eroe a difenderli? No, che eroe no, nel senso che certamente è difficile far capire che la sicurezza non è un bene di largo consumo, quindi quando uno deve pensare di investire in sicurezza non è come comprare un elettrodomestico o un'apparecchiatura elettronica qualsiasi, lì va a investire sulla propria serenità. Questo è un messaggio difficile da far capire al consumatore, il quale troppo spesso fa delle valutazioni legate ai prezzi o solamente a dei parametri che magari vanno bene in altri settori. Noi dobbiamo tutelare la serenità delle persone prima di tutto, e questo è un valore importantissimo che richiede anche una certa preparazione. Per il resto no, eroe no, certamente oggi fare impresa è sempre più difficile, e quindi se non c'è un po' di eroismo, una piccola dose di masochismo, questa sicuramente sì, ecco. È arrivato lontano anche Fassi Group, il secondo produttore di gru su scala mondiale. Fondata da Franco Fassi ad Albino nel 1965, ora è diretta dal figlio Giovanni. La produzione è tutta italiana, con 14 stabilimenti distribuiti sul territorio nazionale, gestisce l'intero ciclo produttivo dal foglio di lamiera alla gru finita. Esporta in 60 paesi in tutto il mondo, e c'è anche un pezzo d'Italia nella realizzazione del progetto della grandiosa Freedom Tower, che con il Monumento Nazionale Caduti ricorderà a New York e al mondo le 2.986 vittime degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Fassi, in questo caso, ha risolto un ostacolo che avrebbe rallentato i lavori e di conseguenza i tempi di consegna, realizzando con le sue gru un sistema di movimentazione integrato, in grado di rendere Ground Zero un cantiere mobile non-stop. La lampadina si è accesa nel dopoguerra, per cui all'inizio, già nel 48, quando mio padre, da semplice autista di camion che lavorava per mio nonno, ha deciso di lavorare non più sui camion ma per i camion. Per cui all'inizio è nato tutto, come sempre succede in sordina, fino agli anni 65, per cui inizio anni 60, e poi nel 65 c'è stata la svolta, quando ha deciso poi di produrre un proprio prodotto. Ha identificato il prodotto, che è poi il prodotto che produciamo anche oggi, le gru per autocarro, e da 65 ad arrivare ad oggi tutte le risorse, le idee sono state poi dirottate verso questo nuovo prodotto, appunto. Parliamo subito allora dell'attualità. Fino a dove l'idea è arrivata? Ma l'idea è arrivata fino agli Stati Uniti. L'ultimo cliente, se così si può definire, è l'impresa che lavora all'interno di Ground Zero, all'interno della Freedom Tower, e che utilizza il nostro prodotto proprio per la costruzione di queste nuove torri. Per cui ci sono due nostre gru di per sé come prodotti standard, che però sono proprio all'interno della torre, e crescono con la torre stessa. Fondamentalmente tutta la logistica per la distribuzione dei materiali di costruzione all'interno della Freedom Tower è fatta dalle nostre gru, e crescono con la torre stessa. Prima qual era la tecnologia che poteva essere utilizzata? Le mani. Cioè, vale a dire che le persone dovevano poi, c'erano delle gru all'esterno e le persone dovevano andare praticamente sui ponteggi esterni, prendere il materiale e portarlo all'interno, indipendentemente dal peso, dagli ingombri e così via. Oggi con le nostre gru diciamo che l'uomo non deve fare più nulla, è la gru con il proprio braccio che esce, prende il materiale e lo distribuisce dove la persona ha necessità. Com'è emotivamente occuparsi di un posto così simbolico come quello di Ground Zero? È una soddisfazione immensa, anche perché è veramente forse uno dei pochi casi dove si è gli unici, nel senso sono entrati i nostri prodotti e sicuramente fino al completamento della torre non entreranno altri dei nostri competitors, per cui in più è penso sotto gli occhi di tutti, anche se all'interno non si può vedere, però insomma Freedom Tower credo che sarà un simbolo per gli anni a venire. Per cui aver partecipato è sempre un punto d'orgoglio importantissimo. Questo importante progetto è il punto di arrivo. Nel punto di partenza ci sono state delle difficoltà che si sono superate, degli ostacoli che vi hanno veramente un po' frenato all'inizio? Difficoltà ci sono sempre, dipendono sempre molto dal momento, vale a dire che forse le difficoltà viste degli anni 70 viste oggi sembrano banalità, come probabilmente fra 20 anni saranno banalità le difficoltà di oggi, ma oggi sono importanti. Diciamo che dopo 45 anni possiamo dire che dobbiamo ancora crescere, per cui non si è mai finito con un'impresa. Il grande cambiamento è stato all'inizio degli anni 90, quando l'azienda era già parzialmente internazionalizzata, però da lì, devo ammettere, insomma, con un po' di lode anche a me stesso, con la mia introduzione in azienda questa spinta è stata notevolmente maggiore, per cui si sono conquistati nuovi mercati, nuovi prodotti e da lì c'è stato veramente il balzo in avanti. Innovazione è una parola che si ripete spesso, per voi in concreto che cosa vuol dire? Prima di tutto significa innovazione di prodotto, anche perché siamo molto concentrati sul prodotto e crediamo che senza di quello l'azienda non possa crescere. Oltre a uno sviluppo logicamente interno, tramite un ufficio tecnico, un ufficio sperimentale, facciamo parte anche di un consorzio nato 3 anni fa presso il chilometro rosso qui a Bergamo, che si chiama Intellimec, e stiamo sviluppando nuovi sistemi di controllo, così come invece stiamo facendo addirittura delle ricerche dedicate solo a noi per portare il livello di fruibilità, di utilizzo delle nostre apparecchie, dei nostri prodotti sempre più avanti. Il nostro concetto è un po' quello di dire arriviamo per primi, gli altri poi ci copieranno, però se siamo i primi sicuramente riusciamo a mantenere un livello di leadership o il riferimento di mercato poi. Adesso quanto fatturate? Oggi fatturiamo intorno ai 100 milioni di euro, siamo arrivati a fatturare anche il doppio, oggi siamo in una situazione di crisi, il 2010 dovrebbe essere all'incirca tra un più 20 e un più 30%, per cui ci attesteremo circa sui 120 milioni. Lei si sente un eroe nel continuare a perseguire, diciamo, questa innovazione, anche arrivare dove gli altri non arrivano? Ma no, la parola eroe non mi piace molto, mi piace molto di più il perseguire, non c'è eroicità nell'azienda, però il fatto di perseguire e soprattutto essere costanti nel proprio lavoro forse è più importante. Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it. Appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.